in primo piano. È la politica, ma non solo, a dominare le prime pagine dei quotidiani di oggi, ma io inizierei da due titoli sul federalismo. Il Sole 24 Ore, federalismo, 8 anni di rodaggio, le regioni che aumenteranno l'addizionale IRPEF non potranno tagliare l'IRAP. È un focus molto interessante sul Sole 24 Ore del lunedì, proprio sui passi che ci porteranno al federalismo. È lo stesso titolo d'apertura del Corriere della Sera, federalismo, ecco le regole, chi non rispetta i conti sarà punito, con l'ineleggibilità. Per la politica, Repubblica, scontro sul mercato dei deputati, mentre il Messaggero, campagna acquisti e scontro. La Stampa invece sceglie il Papa che conquista Londra. Per l'Unità, Berlusconi e Fitto, il ministro Fitto, sono rappresentati in una foto. Il titolo è «Gli scambisti». Perché? Perché la proposta sarebbe quella di mettere Fitto alla successione di Scajola, dunque al Ministero Economico, secondo gli ultimi rumors, quindi la promozione del pugliese per liberare gli affari regionali da dare a chi? Insomma, vedremo. Strumento per il baratto. Comunque la politica in primo piano anche per l'Unità. Io partirei proprio però da questi due focus che troviamo sul Sole e sul Corriere della Sera sul federalismo. A pagina 3 del Sole 24 Ore, ecco le tre tappe per arrivare al fisco federale. 8 anni, quasi 2 legislature, questa è la strada che porterà al federalismo, che vedrà il traguardo solo all'inizio del 2019, quando andrà a regime il nuovo fisco di regioni, province e comuni. Le fasi da superare sono 2, fa sapere il Sole 24 Ore, quella preparatoria che si chiuderà con la quantificazione dei costi standard e quella sperimentale in cui il nuovo meccanismo verrà messo in rodaggio. In pratica si tratta di abbandonare che cosa? Il modello attuale storico dei finanziamenti a piedi lista. Addio dunque ai trasferimenti statali che coprono tutte le spese decise da sindaci e governatori, sarà stabilito un costo giusto, ecco il costo standard, un costo giusto delle prestazioni essenziali come la sanità, la scuola eccetera. In base a quello, a quel parametro, sarà modulato l'intervento centrale. Quindi se una regione spenderà più di quel costo definito giusto, definito standard, dovrà cavarsela da sola, ovviamente lavorando sulle possibili leve fiscali. A questo proposito anche il Corriere della Sera, appunto a pagina 5, governatori, conti a posto o niente, ricandidatura, la punta su questo tema, e cioè chi non rispetterà questi costi standard, chi sforerà questi costi. Un governatore che nello specifico 6 mesi prima della scadenza del proprio mandato non presenterà conti certificati della sanità della propria regione non potrà per esempio ricandidarsi alle elezioni. Questo varrà anche per i sindaci. La leva fiscale dove si muove? Per esempio, i sindaci avranno dei bonus legati all'emersione dell'evasione fiscale nel loro territorio. Quindi si riescono a mettere in atto anche strumenti per far emergere l'evasione fiscale e potranno avere dei bonus. Mentre i governatori potranno ricevere delle quote aggiuntive di fondi FAS per realizzare opere pubbliche, sempre se saranno virtuosi, e solo i virtuosi ovviamente potranno ridurre IRPEF e IRAP. Tra l'altro il Sole 24 Ore fa anche un'intervista a Luca Antonini, che è il presidente della commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale, intervistato da Eugenio Bruno. Spiega proprio come i tagli all'IRAP saranno possibili solamente con i risparmi di spesa. Diciamo un interessante focus sul federalismo che fa un po' a pugni con quello che emerge da Il Giornale, ma è anche in realtà un'inchiesta di Italia Oggi 7, che è l'edizione del lunedì di Italia Oggi, e che viene presentata così sul giornale. La casta mantiene 300.000 consulenti. Ebbene sì, sono i dati che Italia Oggi ha messo, mette oggi in prima pagina, nelle prime, per la verità, 9-10 pagine, un'inchiesta di quanti sono i consulenti degli enti locali, delle regioni. 300.000 consulenti che ci costano 1,5 miliardi di euro l'anno. Il giornale ci fa anche l'apertura di prima pagina, i 300.000 mantenuti dalla casta. Per la precisione costano a noi contribuenti 1,39 miliardi di euro all'anno. Ci sono regioni che hanno la consulenza, la Campania per esempio, un consulente per l'educazione degli adulti, roba da matti, titola il giornale e scrive in prima pagina l'editorialista Paolo Granzotto. L'educatore per gli adulti si è portato a casa in 5 anni 300.000 euro, ma a sfogliare Italia Oggi ci sono tutto l'elenco di tutte le regioni. Per esempio il Piemonte spende 111 milioni nel 2009 in consulenze, la Lombardia 265 milioni, il Veneto 146 milioni, la Liguria 26 milioni, l'Emilia Romagna 159 milioni, il Lazio 135 milioni e così via. E poi li vedete anche dettagliati, ci sono con tutti i nomi, i cognomi, il nome e il cognome delle varie consulenze, ovviamente i consulenti che beccano più soldi, immagino. Eccolo qui, l'ho trovato, consulenza in materia di educazione degli adulti in Campania, 300.000 euro, Francesca Piccolo e Lucia Fortini. Poi, vabbè, ma ci sono, immagino, anche altre consulenze molto simpatiche da andare a spulciare, ma questa proprio in evidenza subito. Insomma, c'è il federalismo da una parte, ma dall'altra parte questa casta, secondo il giornale, di 300.000 consulenti, 1,39 miliardi di euro ci costano ogni anno. Con la politica, veniamo alla politica in primo piano. Allora, sia su Repubblica che su Il Messaggero, il tema è quello della cosiddetta campagna acquisti. Ieri Berlusconi, per la verità, ha detto è tutto sotto controllo, della serie non è vero niente, i numeri ci sono, in Parlamento non ci sarà alcun problema. In realtà i giornali sono pieni di cronache di quella che sarebbe un tentativo proprio di accaparrarsi i voti dei parlamentari ed essere autonomo in caso di defezione di voto da parte dei finiani. La soglia è quella 316 voti. Si guarda soprattutto all'UDC, tanto che il leader dell'UDC Casini ieri è tornato a dire, affrontare i cosiddetti dissidenti, è umiliante vedervi con il cappello in mano, questo è il titolo a pagina 3 del Corriere della Sera, mi sono sentito umiliato, ha detto Casini, nel sentir dire a Berlusconi di non aver offerto nulla a nessuno, ma che sono venuti loro da me. Che chi è eletto con l'opposizione si presenti col cappello in mano è una cosa che umilia il nostro elettorato. Tra l'altro il Corriere fa la conta proprio di questi voti. Allora, la data chiave è quella del 28 settembre, quando Berlusconi parlerà dei cosiddetti 5 punti alla Camera. A 8 giorni dal voto, fa sapere il Corriere, il PDL ha 237 voti. Cioè non ci sono i finiani, il PDL, più 59 della Lega, più il repubblicano Francesco Nucara, la ADC di Pionati e i 5 di Noi Sud. Si arriva a un totale di 303. Insieme i probabilissimi 3 liberal democratici, i 5 UDC dati ormai per sicuri, e si arriva a 311. Quindi secondo il Corriere della Sera la soglia di 316 è a meno 5, non è ancora stata raggiunta. Intervistato a Repubblica è uno di quelli che Casini ha indicato come uno dei dissidenti, vale a dire Saverio Romano, mister 100.000 preferenze, amico di Cuffaro, intervistato da Antonello Caporale. Lei allora col cappello in mano? Non vado da nessuna parte, una falsità assoluta. Lei voterà Berlusconi e sarà il nuovo sottosegretario, chiede Antonello Caporale. Scorretta e infondata sia la prima che la seconda affermazione. Allora lei non voterà Berlusconi e resterà fedele a Casini. Ho detto questo? Risponde Romano. Vero, non ha detto né questo né quello. Io amo il ragionamento. Mi permette? So che il mio elettorato non desidera questo sistema bipolare, ma nel caso debba scegliere, sceglie lui. Vede dunque, lei voterà Berlusconi. Sia gentile, mi permetta di avanzare quest'altra considerazione. Io ascolto, raccolgo le aperture, procedo nelle riflessioni e poi decido. No, molto democristiano, Non si trova mai nessuno che dica sì alle accuse. Lei si è meritato l'accusa di mafia che le fu rivolta? No. Ecco, non si trova mai nessuno che dica sì. Scusi, ma nemmeno per idea, come può venirle in mente una cosa simile? Lei quando stringe la mano ha timore di afferrare quella sbagliata? Chiede Caporale. Io non stringo la mano a chiunque, solo politici, consiglieri regionali, comunali, gente fidata. Insomma, niente fango. Quand'anche il fango ti circondasse, non è detto che debba sporcarti per forza. Questo è Saverio Romano, Nell'UDC intervistato da Antonello Caporale su Repubblica, per la verità la conta la fa anche la stampa, è una conta un po' diversa, quella che fa Ugo Magri a pagina 9, la conta dei voti. Il 29, appunto, allora il 28 o il 29 di settembre, non si capisce, per il Corriere il 28, per la stampa il 29 settembre che Berlusconi parlerà alla Camera. Se il 29 settembre alla Camera non raggiunge l'autosufficienza, cioè una maggioranza pure senza i Fignani, Berlusconi può considerarsi alla frutta, scrive Ugo Magri. Lui lo sa talmente bene che ogni sua mossa è mirata a quel traguardo vitale. E sapete chi è il personaggio, secondo Ugo Magri, che sta cercando di recuperare i voti? Non è quel Francesco Nucara, segretario del Partito Repubblicano, che si è mosso molto la settimana scorsa annunciando, ecco, i 20 ascari di Berlusconi, poi in realtà non c'erano. Ma, secondo la stampa, è Enzo Scotti, già potente nel paleozoico della Prima Repubblica, sopravvissuto alle glaciazioni e adesso di nuovo in auge quale leader di Noi Sud. 4 deputati eletti col PDL, grande adescatore di cani sciolti per conto del Premier. Così viene definito dalla stampa. Nel giro stretto berlusconiano risulta che l'accalappia cani Scotti stia facendo una buona caccia, contattando a uno gli scontenti dell'altra sponda. Se le prede del vecchio Scotti si sommano ai centristi di Mannino e Cuffaro in uscita dall'UDC, il gioco è fatto. Quota 316 a Montecitorio sembra la portata del Premier. Avete visto? Quello che per il Corriere 311 non c'è, per la stampa 316, grazie all'accalappia cani, così viene definito Enzo Scotti, è a portata di mano. Mentre Di Pietro, sempre sulla stampa, sdegnato, dice: hanno tentato di comprare due dei nostri, vale a dire l'onorevole Favia e l'onorevole Antonio Razzi, promettendogli addirittura di pagargli il mutuo. Questo l'abbiamo letto settimana scorsa su Repubblica. Sono immorali e squallidi, così parlò Di Pietro. Anche l'Unità molto attacca molto su questo. Nel suc di Berlusconi anche i cannoli di Totò, ecco, punta sul fatto che anche Totò Cuffaro sembra uno dei dissidenti dell'UDC di Casini, pronto a votare Berlusconi. Ho come detto da vari giorni, se a destra non va molto bene, a sinistra questo intervento di Walter Veltroni, il documento di Walter Veltroni firmato da 75 del Partito Democratico, ha letteralmente terremotato il PD, per l'appunto. Oggi Walter Veltroni torna carta e penna a prendere carta e penna e scrive una lunga lettera su Repubblica. È il momento delle lettere per il centro-sinistra. Veltroni, basta parlare di nomi. Caro direttore, inizia così Veltroni, ho letto in un articolo del suo giornale che, secondo i soliti anonimi ben informati, il documento firmato da 75 parlamentari del PD altro non sarebbe che un mio diabolico disegno per diventare il cosiddetto papa straniero che il suo giornale ha identificato come possibilità per dare più spazio, più forza al centro-sinistra, del quale hanno parlato diversi dirigenti del PD. Cioè, Veltroni dice, mi hanno accusato di fare tutto questo per potermi ricandidare. Queste sono tutte balle. Avremmo fatto tutto questo perché io vorrei essere il papa straniero. Chi spiffera queste fesserie applica agli altri il proprio modo di ragionare. Voglio essere chiaro, scrive Veltroni. Sono oggi uno dei pochi dirigenti del PD che non ha incarichi. Non li ho chiesti, non mi sono mai stati proposti. Ho solo domandato di andare nella commissione antimafia per fare un lavoro difficile, bello, esposto. Ci sono già abbastanza candidati per primarie non fissate in vista di elezioni non convocate. Io non sarò tra questi, anche per i motivi indicati con chiarezza da Eugenio Scalfari. Io sono e resto di dirigente del PD, partito che ho contribuito a fondare, dunque smettiamola di parlare di nomi. In questo il centrodestra è molto più resistente di noi. Perde elezioni, litiga, si divide, ma chi sono i leader di questo schieramento? Gli stessi del 94, Berlusconi, Fini, Bossi e Casini. Noi, moderni Ugolino, ne abbiamo divorati a decine, a cominciare dalla sciagurata interruzione della più bella esperienza riformista italiana, il primo governo Prodi, che però qualcuno dice fu affossato proprio dalla volontà di Veltroni di fare il PD a vocazione maggioritaria. Per questo, conclude Veltroni, io che non ho votato Bersani lo riconosco come leader del mio partito. E nel documento, solo ad avere la pazienza di leggerlo, non c'è una parola che metta in discussione la leadership o invochi i congressi. C'era una frase che poteva apparire sgradevole, è stata tolta. Dunque, Veltroni, carta e penna, dice basta dire che voglio sfasciare e soprattutto basta dire che ho fatto questo per candidarmi, anche se sulla situazione interna al PD oggi si cimenta Ernesto Galli della Loggia in prima pagina del Corriere della Sera con un editoriale molto duro dal titolo La solitudine nei numeri 2 è l'analisi del perché a suo modo di vedere a sinistra non ci sia mai un capo mentre la destra ha un capo, la sinistra no. Quali sono i motivi per Galli della Loggia? Secondo me sono tre i motivi principali per cui a sinistra non c'è mai un capo. Innanzitutto perché non ci riesce quello che è il suo partito di gran lunga più forte ad avere il capo, il PD, che è una cozzaglia di gruppi, di storie, di opinioni, ma non un partito. Il secondo motivo per Galli della Loggia in questo editoriale riguarda con ogni evidenza la divisione ideologica della sinistra. Anche la destra è ideologicamente divisa, ma a destra sulle divisioni riesce sempre a prevalere in ultimo la volontà di vincere, quindi il riconoscimento bene o male di un capo. Sulle passioni, cioè, riesce ad avere la meglio l'interesse politico complessivo. A sinistra, invece, sembra prevalere in tutto la passione della proprio particolare punto di vista, Rifondazione, Italia dei Valori, Grillini, Verdi. E infine, il terzo motivo per cui a sinistra non c'è un capo per Galli della Loggia è riconducibile alla cultura maggioritaria nel popolo di sinistra, è il forte elemento antigerarchico presente in tale cultura, cioè l'ostilità all'idea che, specie in politica, ci sia e debba esserci uno che comanda e gli altri che obbediscono. E dunque questo va a distruggere le personalità individuali, sicché la cosiddetta personalizzazione, lungi dall'essere una patologia della politica, è viceversa iscritta da sempre nel suo destino. Insomma, una sinistra, scrive Galli della Loggia, con molti capetti ma senza un capo, che è costretta a inventarsene spasmodicamente uno ad ogni stormir di fronde elettorali. La solitudine dei numeri 2, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, in prima pagina del Corriere della Sera. Tante promesse ma pochi soldi, il 2015 è vicino. Questo è il titolo che trovate a pagina 12 della Stampa. In questi giornali, nei quotidiani di questi giorni, nei quali la politica come sempre la fa da padrone, purtroppo invece vengono messe notizie come queste nelle pagine interne 12, 13. In realtà oggi si apre un vertice importante, un summit all'Assemblea Generale dell'ONU, in cui si discuteranno gli impegni presi 10 anni fa nella battaglia contro la povertà, analfabetismo, malattie nel mondo. Che dite? È un tema un pochino importante, un pochino rilevante, eppure appunto ci sono, sì, Repubblica mette in prima pagina l'appello di Bono, qualcuno mette la traduzione dell'appello del Presidente della Commissione Europea Barroso, ci sono dei resoconti, sta di fatto che già si parla di possibile fallimento e di queste notizie, per la verità c'è. Peraltro c'è anche un caso Italia su queste cose, perché noi siamo tra i paesi che delle promesse fatte abbiamo mantenuto davvero pochissimo dei fondi da stanziare per lottare contro povertà, analfabetismo, malattie nel mondo. E di queste notizie davvero c'è poca cronaca. E infatti, guardate l'esempio, si apre questa Assemblea Generale dell'ONU fondamentale, ma che cosa prende l'attenzione, cosa prende le prime pagine di questa Assemblea Generale dell'ONU? Ahmadinejad, leader iraniano, che il presidente iraniano che sbarca a New York per questa Assemblea Generale dell'ONU e fa un'intervista, accompagnato meglio da un'intervista fatta al giornale Iran, nella quale dice, intanto difende Carla Bruni perché è stata insultata, ricordate, da un altro giornale iraniano che l'aveva definita una prostituta, una che merita la morte, la difende dicendo è sbagliato attaccare così, fare questi insulti, dice Ahmadinejad, e poi stupisce tutto il mondo dicendo sa chi ne è? Ricordate quella, la donna per la quale si è mobilitato mezzo mondo per evitarne la lapidazione. È una notizia falsa, dice Ahmadinejad. La notizia della condanna alla lapidazione è falsa e fabbricata da qualcuno. Ha infettato i media americani. La signora Mohammadi è sotto processo, non è stata condannata a nulla. Insomma, Ahmadinejad dice abbiamo preso tutto il mondo una gran cantonata. Oppure, come dice qualcuno, sta agendo come al solito con la solita furbizia e doppia faccia per cercare di così stupire ancora una volta. Una notizia che però trovate di esteri, che però ci riguarda da vicino, la mette solo La Stampa, pagina 5 con Maurizio Molinari, è questa: gli occhi di Falco USA sbarcano a Sigonella. Sono arrivati a Sigonella i primi, alla base militare di Sigonella, i primi droni Global Hawk atterrati nella base americana, dando inizio a un dispiegamento destinato a fare della Sicilia una postazione avanzata per la sorveglianza elettronica di un'area geografica molto vasta, da Gibilterra all'Afghanistan. Si tratta di nuovi modelli aerei Global Hawk RQ4 che non sono armati, sono considerati il più avanzato aereo spia nell'arsenale del Pentagono dalla realizzazione degli U2 negli anni 50. È un esemplare che costa 183 milioni di dollari, con sensori che possiedono in grado di identificare qualsiasi obiettivo in movimento in un raggio di 100 chilometri, trasmettendo a terra immagini molto nitide di qualsiasi tipo di superficie. Un'autonomia di volo di 42 ore, un raggio d'azione di quasi 26.000 chilometri, strumenti avveniristici. Insomma, stanno sbarcando la base aerea di Sigonella in Sicilia e dunque farebbero della Sicilia una delle basi avanzate mondiali per il centro di controllo di tutto il Medio Oriente. Chissà che questa notizia non scatenerà anche i pacifisti, le persone che sono anche molto sensibili a questo tipo di notizie. Io vorrei andare però, ci sono vari interessanti articoli di cronaca, ne ho segnalato uno. Cioè, ne ho selezionato uno, perché il tempo un po' corre, da Repubblica, che vi invito poi a leggere assolutamente, quello di Attilio Bolzoni a pagina 21. La corsa al mattone di Gela, case abusive, chiavi in mano, costruite in 21 giorni. Attilio Bolzoni fa uno straordinario viaggio a Gela. Ed è davvero inquietante. In quanto tempo si può costruire, secondo voi, una casa di 3 piani? In un anno? In due? In Sicilia c'è qualcuno che l'ha fatto in 21 giorni e in 21 notti, il signor NF, identificato con le iniziali. Nella sua casa non ci potrà abitare, è stato denunciato 7 volte per abusivismo, ma lui sa già che prima o poi lì dentro farà entrare la sua numerosa famiglia. Ma è ancora difficile capire se il vero miracolo a Gela sia quello riuscito al signor NF, che in meno di 3 settimane ha visto nascere il suo palazzo, oppure quell'altro miracolo, inseguito dal 1968, finalmente apparso alla città intera in questa fine d'estate. Si materializzerà tutto il prossimo 24 settembre con timbro e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo 42 anni di attesa, anche Gela avrà il suo piano regolatore generale. E il problema del signor NF è proprio questo, quello di riuscire a fare in fretta e avere la propria casa prima del 24 settembre, la propria casa abusiva ovviamente, prima del 24 settembre, cantiere sequestrato 7 volte, 7 volte riaperto, tutti hanno lavorato in maniera abusiva, in 21 giorni costruire una casa, perché? Perché Gela, notizia d'Italia del 2010, non ha ancora il piano regolatore generale. Arriverà il 24 settembre, era atteso dal 1968. E vabbè, ci fermiamo qui. Allora, vi segnalo il sondaggio, votatelo prima che ai veneti, o meglio, prima che agli immigrati, lavoro ai veneti. Anche la CGIL di Treviso è d'accordo. Che ne pensate? Radio24.it, ora il GR.